Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, ancora una puntata dedicata all'Energy Catalyzer, il reattore a fusione fredda inventato, proposto da Andrea Rossi. Ne parliamo con Mats Lewan, che è il giornalista di Nyteknik, rivista svedese ben nota, e che sta seguendo molto da vicino questa vicenda sin dal suo inizio. Buonasera Mats. Buonasera. Dunque Mats, che cosa pensi delle reazioni che ci sono state rispetto all'esperimento di Bologna? Diciamo, tu sei quello che ha scritto il rapporto di riferimento per quanto riguarda i risultati dell'esperimento. Sì, diciamo che le reazioni sono un po' quelle aspettate, nel senso che questa volta c'era una speranza di un livello un po' più avanzato della raccolta dei dati, e anche come era messo il setup dell'esperimento per avere un po' più di certezze proprio delle misure. Effettivamente io non credevo nemmeno che sarei stato io a essere responsabile per la raccolta dati, però alla fine è stato così. Quindi le critiche sono sostanzialmente sul livello della precisione delle misure, che anche io avrei voluto che erano più precise, per essere sincero. Complessivamente però che cosa pensi? Pensi che questo esperimento, questa dimostrazione abbia dimostrato che l'oggetto produce nettamente energia in una quantità abbastanza significativa da far pensare a delle reazioni nucleari? Sì, diciamo che soprattutto quando io mi sono messo la notte dopo lo esperimento, perché durante la notte ho fatto il report, la cosa che mi ha colpito proprio dopo è che ho visto le curve di temperature che dopo 3 ore e mezzo di autosostentamento erano perfettamente stabili, ma era proprio impressionante, perché erano stabili da poter andare avanti non so quanto. Ovviamente non c'è prova che poteva andare avanti, però non c'era un calo, non c'era un misurabile minimo segno di calo del sviluppo di calore o di nient'altro. E quello per me, forse più dei dati esatti, segnala che qua deve esserci una fonte di calore che non è quello elettrico, magazzinato, finto o qualcos'altro, deve esserci qualcosa. Che poi questa volta assolutamente di sicurezza dire che nucleare non è così facile come le altre volte, perché qua l'apparecchio in sé era abbastanza grande, grosso, però sinceramente ho difficoltà a credere che ci sarebbe stato nascosto una fonte chimica di combustibile o qualcosa dentro, però non lo posso provare. Dunque tu hai scritto e hai detto che le misure che hai riportato sono molto conservative, io sono d'accordo con te per quello che ho visto nelle 3 ore che sono stato lì. Quando dici conservative, però, quanto conservative? Cioè il margine che ti sei preso di sicurezza più o meno quant'è? 50%, cioè potrebbe essere il doppio. D'accordo. L'energia sviluppata, minimo. Innanzitutto perché le termocoppie, cioè i sensori di temperatura che erano messi per misurare la temperatura dell'acqua che doveva essere scaldata, non erano calibrati in modo perfetto prima dello sperimento, e la raccolta di data non è stato fatto con computer anziché a mano da me. E poi quello è per primo. Poi l'altro è che c'era un calore notevole dell'apparecchio in sé, quindi una dissipazione, una perdita di calore dell'apparecchio che potrebbe essere calcolato come energia sviluppata, e quello non è stato calcolato per niente. Certo. Ecco, però perché secondo te Rossi non cerca di far testare il proprio apparecchio a una terza parte? Insomma, il fatto è che se questo oggetto funziona, come davvero si ha la sensazione quando ce lo si trova davanti? Anch'io ho avuto la sensazione che lì ci fosse qualcosa che produceva energia. Perché allora non mettersi nelle mani di una terza parte, di un istituto di ricerca, che garantendo a Rossi, insomma, che non sia in alcun modo compromesso il segreto contenuto in questo ECAT, però una volta per tutte stabilisce che c'è una produzione di energia elevata e quindi riconducibile solo a reazioni nucleari? Perché non lo fa secondo te? Allora, io direi che sono un po' per motivi pratici e un po' per motivi di carattere di questa persona. Innanzitutto bisogna capire che lui non è un carattere di un ricercatore che ha come priorità di dimostrare qualcosa. Lui è un un imprenditore. Beh, però deve lui ha la priorità di dimostrare qualcosa, di dimostrare che ha inventato un oggetto rivoluzionario. Diciamo, la sua priorità è fare un prodotto. Nella testa sua, sì, la priorità è fare un prodotto che lui può vendere. Ma non sarebbe molto più facile venderlo se un'università gli mettesse sopra il timbro, dicesse sì, questo oggetto non sappiamo come, ma possiamo dire che produce una quantità di energia notevole e siccome non abbiamo spiegazioni alternative dobbiamo credere a Rossi? Forse sì, però io direi come primo punto è da notare questa cosa, che lui c'ha questo carattere che focalizza assolutamente sullo sviluppo del prodotto e mette tutte le sue energie lì. Poi è molto preciso quanto riguarda i deadline. Lui ha promesso di fare una dimostrazione di impianto di un megawatt entro ottobre e è assolutamente deciso di farlo entro ottobre. Per adesso ha promesso di farlo il 28 ottobre. E quello per un conto. Poi è molto geloso per quanto riguarda i segreti della tecnologia. Vuole assolutamente essere presente lui quando si fanno, sì, tutte le prove, questo... anche se si fa da una terza parte lui vuole essere. Ma questo mi sembrerebbe una richiesta del tutto ragionevole da fare anche a una qualche altra università. Io vedo che per poter fare questa prova di un megawatt entro 28 io ho visto che veramente è stato molto impegnato, cioè è una persona che lavora tantissimo, ogni giorno tantissimo, ed non è facilissimo trovare un momento dove lui un paio di giorni portandosi tutta l'attrezzatura ad un altro posto per fare questa prova. Non è ovvio, però anche voglio aggiungere che a me sembra, parlando con lui, che lui comunque è interessato a farlo nei prossimi mesi in Europa, negli Stati Uniti o dove riesce a farlo. Lui sì, è interessato a farlo, solo che non è la prima priorità. D'accordo. Questo reattore da un megawatt, tu credi che questo apparecchio, non so se glielo hai chiesto magari, verrà sottoposto a, come dire, delle misurazioni che questa volta non saranno più discutibili? Io spero di sì, veramente, spero di sì, però ci saranno sicuramente ancora discussioni da poter fare. Grazie Mats Lehwan. Grazie mille. Ci fermiamo qui, domani cambiamo nettamente argomento, parleremo di piastrelle isolanti. Buona serata.